Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Ve l'avevamo promesso e abbiamo mantenuto, noi manteniamo quello che diciamo. Sono Luca Tremolada e sono qui con Antonio Dini, che mi guarda un po' terrorizzato, perché la promessa è: avremmo parlato di innovatori e pubblica amministrazione in maniera seria e composta, e lo faremo oggi. Esattamente, Luca, non è un ossimoro innanzitutto, non è una contraddizione mettere nella stessa frase innovatori e pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione in realtà è un serbatoio straordinario a saper dove guardare di storie, di casi innovativi, di situazioni che in qualche misura trasportano alcune delle migliori pratiche, alcune delle migliori tecnologie in quello che è poi la vita di tutti i cittadini, perché non si scappa. E tra l'altro noi abbiamo deciso di portare davanti al microfono, di accendere il microfono agli eroi, perché all'interno della pubblica amministrazione esistono degli eroi che si stanno battendo per cercare di velocizzare, semplificare, portare, ed usiamo gli annunci che non dobbiamo usare, portare la pubblica, lo Stato vicino al cittadino. Sai queste frasi che abbiamo, siamo abituati a sentire e risentire? Noi racconteremo le storie di questi eroi della pubblica amministrazione e lo faremo a partire da oggi. Sarebbe un'esperienza bellissima, perché ci consentirà di trovare effettivamente alcuni degli snodi principali che le nuove tecnologie stanno consentendo in uno dei settori più importanti. Quindi lancio l'appello 824 0024, se c'è il momento di dire qualche cosa sulla pubblica amministrazione che non funziona, sulla digitalizzazione dei documenti, su invece dei casi in cui invece funziona tutto perfettamente, anzi che bello, questo è il momento. 824 0024 è il numero telefonico, se ci volete scrivere un sms 349 238 6666. Ma il nostro primo eroe si chiama Gianluigi Cogo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, noi adesso sentiamo una scheda dedicata a lei e poi chiacchieriamo. Si definisce un rompiscatole e ne è orgoglioso. Per innovare nella pubblica amministrazione, sostiene, bisogna essere un po' disubbedienti, ma nel senso buono. Gianluigi Cogo, 51 anni, ha iniziato negli anni 90 con Venice Online, una BBS cittadina che già anticipava le comunità 2.0 di oggi. Il suo pallino è quello di semplificare, di rendere la macchina burocratica più agile utilizzando blog, Twitter, foto e telefonini, tutti gli strumenti del web 2.0. Il mio mestiere, ripete spesso, è innovare da dentro. Oggi lavora alla Regione Veneto, dove ha la responsabilità dei progetti internet e intranet. La sua battaglia? Evitare che la burocrazia metta le mani sull'informatica. È assurdo, sostiene, tradurre in programmi per il computer il delirio di regole e leggi che rendono la macchina statale inservibile. Occorre, al contrario, cogliere l'opportunità per ripartire da zero. Sulla posta certificata ha un'idea piuttosto chiara. Se un semaforo è rotto, racconta, non mi serve avere qualcuno certificato che mi segnali il malfunzionamento. Ho bisogno di qualcuno che lo ripari. Buongiorno. Buongiorno ancora. Ecco, allora, vogliamo capire innanzitutto che mestiere è quello dell'innovatore della PA, ovvero come si riesce a cambiare qualche cosa da dentro? Beh, per cambiare qualcosa da dentro bisogna innanzitutto mettersi un elmetto, possibilmente un moschetto, e andare in trincea, perché il più grosso problema della pubblica amministrazione è la resistenza che c'è dentro, ed è una resistenza molto ma molto forte, per cui non bisogna deprimersi, bisogna continuare con una certa tenacia, quindi bisogna essere, oltre che disubbidienti, un po' rompiscatole, anche tenaci, e far capire che comunque tutto quello che succede fuori non è un qualcosa di fantascientifico. Gli stili di vita, ad esempio, dei nostri figli, no? Il modo con il quale si approcciano le nuove tecnologie, non è fantascienza che non può assolutamente essere mutuata come buona pratica nella pubblica amministrazione, ma anzi quello deve essere il riferimento, cioè se è facile farlo fuori, perché non dobbiamo renderlo facile anche dentro? Ecco, lei che cosa ha realizzato finora? Nel senso, proviamo a raccontare, lei mi ha raccontato un progetto che noi definiamo 2.0, però insomma lei lo può definire senza delle scatole o delle targhe. Ma sì, innanzitutto etichettare tutto come 2.0 direi che è un po' una moda passata, nel senso, ok, possiamo anche numerare le evoluzioni, ma sostanzialmente oggi come oggi si parla di evoluzione di quello che la rete ovviamente prima o dopo doveva dare, cioè doveva dare un qualcosa di molto più semplice, molto più interattivo e anche molto più facile, questa è la grande rivoluzione del 2.0. Beh, noi cosa abbiamo fatto? Innanzitutto ci siamo posti il problema qui in Regione Veneto della conoscenza. Leggevo anche oggi alcuni resoconti anche interessanti di alcuni osservatori che dicevano che sostanzialmente sia le aziende che le pubbliche amministrazioni non conoscono in maniera profonda che cosa fanno i propri dipendenti, sia come ambiti di competenza, che come ruoli, che come tempi, che come vocazione, dedizione, eccetera. Perché? Perché sono portati a ragionare per processi. Ecco, quello che abbiamo fatto noi è stato di mettere al centro le persone, ovviamente all'interno, nella intranet, una grande intranet partecipativa, quindi qui sì possiamo metterci 2.0, dove ognuno aveva la possibilità di crearsi il proprio blog, il proprio profilo personale. Quindi per intenderci, ogni funzionario aveva la possibilità di aprire un blog o un altro, un suo spazio in una rete che è comune a tutti i funzionari del Veneto, dico bene? Certo, ma anche le strutture, nel senso che noi non è che buttiamo via tutto, il bambino con l'acqua sporca e anche le strutture, tutti i livelli di mediazione, cioè esiste l'organigramma viene comunque fotografato in intranet, però che uno lo riempia, non lo riempia, gli metta dei contenuti o delle applicazioni, non importa, e soprattutto non è orchestrato da nessuno. Chiunque vuole enfatizzare i propri progetti o comunque vuol dare un pochino di visibilità alla propria creatività, lo fa. Ma come d'altronde può anche mettere in piedi delle applicazioni che possono essere utili agli altri. Noi una cosa che stiamo facendo ultimamente, andiamo ben oltre a quelli che sono user generated content, ma stiamo andando verso quelle che sono le user generated application. Il concetto è, se un utente evoluto e culturalmente, digitalmente evoluto, è in grado di sviluppare un'applicazione con i concetti del 2.0, il tipico mashup, lo può mettere nella intranet e se questo è buono ed è vincente, tutti lo utilizzano. Dottor Cogo, le volevo chiedere, sono Antonio Dini, una cosa io invece che un po' mi incuriosisce, perché immagino la fatica che si faccia a cercare di innovare all'interno della macchina amministrativa regionale, però quello che mi chiedevo è poi, questa esperienza rimane o rimarrà confinata in Veneto e le altre regioni, diciamo così, voi avete inventato la ruota e dovranno reinventarla da zero, oppure esistono anche dei meccanismi per quali le buone prassi di una regione possono ricadere anche sulle altre? Ma indubbiamente ci sono tantissime occasioni nelle quali noi ci confrontiamo, esistono proprio delle vere reti. Io vi invito anche gli ascoltatori a guardare ad esempio il nostro social network di riferimento, che è www.innovatoripa.it, dove tutti i dirigenti e funzionari, ma anche operatori, cercano comunque di scambiare, di fare una specie di marketplace delle buone pratiche. E questo è già un ottimo esempio, dove se una cosa funziona da una parte, per il principio tipico del riuso, la si può fare da un'altra parte. Ma attenzione, noi poniamo veramente un aspetto interessante, che non è detto che ogni volta bisogna acquistare un prodotto tecnologico o comunque rivolgersi a un fornitore, perché là fuori, nel mondo, dove gli altri stanno utilizzando tante cose, c'è già tutto disponibile. Cioè il web sociale, ad esempio, presenta già tutta una serie di applicazioni che possono essere portate anche dentro le intranet. L'importante è non aver paura di rompere quella che è un po' diciamo il confine di un'appartenenza quasi massonica all'interno della pubblica amministrazione. No, mi apro al mondo, che è quello che insomma lo spirito di partecipazione 2.0 poi ecco, allena per potersi Gianluigi Cogo, ma noi stiamo ricevendo un po' di sms, tra cui un ascoltatore dice sì, però prendiamo il caso degli ospedali, dei referti, delle cartelle, tutto questo richiede la firma del medico, cioè i documenti devono anche essere stampati, per cui insomma serve poco una digitalizzazione, se poi le leggi in questo caso, se poi le leggi vanno, chiedono poi un passaggio cartaceo. Nulla da eccepire su questo, ma quello che io stavo cercando di porre l'attenzione è che ci sono degli aspetti formali e degli aspetti informali. Allora, è vero che gli aspetti formali hanno bisogno di prerequisiti, ma quanti sono proprio numericamente come tempo e anche come quantità? cioè sono perfettamente d'accordo che io quando vado a prendere un qualcosa deve essere certificato che quel medico me l'ha rilasciato, eccetera, ma io sto parlando della conoscenza complessiva di un'organizzazione, la quale non viene messa a disposizione di tutti, perché se viene messa a disposizione di tutti, che cosa fa? Infrange delle rendite di posizione. Certo. Allora diciamo questo, non è sempre vero che tutto deve essere certificato, sono perfettamente d'accordo per quanto riguarda questo aspetto medico, ma anche per quanto riguarda una legge, un provvedimento, un decreto, come li chiamiamo noi, quello deve essere firmato da chi ne ha l'autorità. Ma quanti sono questi? E attenzione che anche in questi, per la produzione di questi, quanti processi faraginosi con N livelli, con una filiera immensa di mediatori dobbiamo soddisfare prima di arrivare a un rapporto diretto? Ecco, già... Faccio l'esempio della Francia. La Francia per fare i 7:30 c'è una telefonata fra l'incaricato, il quale ti chiama, ti dice vieni a prendere un caffè da me, ti dà il nome, il cognome, il numero di telefono e c'è un rapporto diretto uno a uno. Noi dobbiamo passare attraverso il commercialista, l'agenzia delle entrate. Ecco, a proposito di commercialista, anzi non a proposito del commercialista, noi abbiamo qui in studio con noi Riccardo Genghini, che è notaio e diciamo che è uno dei maggiori esperti di digitalizzazione, nel senso che in qualche modo sta studiando come è possibile portare, possiamo dire, il mestiere del notaio nell'era negli anni 2000, mi viene da dire, che vuole intervenire proprio su questo punto dei documenti, immagino. Ma a me piace molto questa cosa che ho appena sentito, perché in effetti, sebbene per una persona che non ha la frequentazione quotidiana con gli uffici pubblici, a un certo punto può essere sembrato un po' complicato quello che si diceva adesso, a me verrebbe di banalizzarlo, però se non è, cioè non è corretto mi proviamo a trovare un esempio migliore, è come la possibilità per ogni cittadino di trovarsi un amico dentro la pubblica amministrazione che magari non è quello competente per la sua pratica, ma magari è quello che quando lui ha una difficoltà a trovare l'ufficio, lo sportello competente, la procedura giusta, stabilisce nell'ambito di questa dimensione 2.0 di network sociale che si descriveva adesso, ti riesce a trovare tramite l'amico dentro la pubblica amministrazione il canale, la possibilità, la procedura, il nominativo, l'ufficio che risolvono la tua esigenza, che è esattamente quello che quegli intermediari di cui si parlava un attimo fa hanno quando si rivolgono agli uffici pubblici, e cioè la capacità di andare allo sportello giusto, e se quello sportello è chiuso, non è disponibile, riceve solo il giovedì dalle 9:30 alle 9:35, in quel caso lì hanno una procedura, un piano B, una possibilità alternativa di trovarsi un interlocutore in quel momento. Ecco, forse questo effettivamente è rivoluziona e disintermedia, lo trovo suggestivo, lo trovo interessante. Ecco, tra l'altro ci chiedono non basta la firma digitale, no, non basta oggi, non è la risolutiva in questo momento. Beh, la firma digitale non di per sé non cambia i processi e non innova. Realizza semplicemente che un file possa essere considerato attendibile come un pezzo di carta, o per meglio ancora più attendibile di un pezzo di carta certificato. Quindi la firma digitale di per sé non cambia nulla. Se però viene inserita in modo adeguato all'interno di processi nuovi che sono adeguati rispetto alla firma digitale, allora sì, è effettivamente un fenomeno di grande innovazione. Ecco, noi avevamo promesso di parlare di posta certificata e lo facciamo, no Antonio? Lo facciamo sicuramente, perché dopo la firma digitale c'è anche questo altro tipo di innovazione che ora cerchiamo di capire prima cos'è e poi con gli esperti che abbiamo qui di valutare anche quanto serva. Ha lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricezione tradizionale. È la posta elettronica certificata, la PEC, lo strumento che permette di utilizzare le nuove tecnologie nel disbrigo delle normali pratiche burocratiche e amministrative. Per quanto riguarda lo Stato, è il CNIPA, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, il custode e gestore della normativa sulla posta elettronica certificata. E i gestori privati che permettono di inviare la posta elettronica certificata devono essere obbligatoriamente accreditati dal CNIPA dopo aver superato una serie di test. Purtroppo la PEC non è ancora uno standard internazionale, e quindi la normativa e gli strumenti a disposizione in Italia valgono solo per i soggetti sottoposti alla nostra legge. In altri paesi, cioè, si fa differentemente. Dopo la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009, da fine novembre la PEC sarà obbligatoria per i professionisti nel dialogo con la pubblica amministrazione e sarà possibile anche ai singoli cittadini avere una casella gratuita di posta elettronica certificata. Mi dica Genghini che ha sollevato una leggera obiezione. Beh, è ancora una cosa per addetti ai lavori, ma nella mia attività di innovatore notaio tecnologico presiedo il comitato europeo che fa gli standard per la firma digitale, per il documento informatico e per la posta elettronica certificata. Il modello della PEC italiana è stato recepito all'interno di uno standard europeo che si chiama ETSI TS 102640, insieme ad altre due soluzioni per poter certificare l'invio di un'email. Quindi la PEC italiana, con alcune piccolissime e non onerose modifiche, è perfettamente compliant con una firma, con una posta elettronica certificata di tipo europeo. Lo standard esiste, garantisce la possibilità dell'interoperabilità, siamo un passo avanti. Quindi abbiamo fatto una cosa buona sostanzialmente. Lo standard che useremo, che usiamo per la posta elettronica certificata, è quello che sale a livello europeo. Ci sono anche nei prossimi mesi delle importanti scadenze di adeguamento per quanto riguarda i professionisti e c'è oltretutto questa nuova dimensione che mi sembra molto interessante del fatto che anche i cittadini avranno possibilità di accesso alla posta elettronica certificata o strumenti analoghi di comunicazione e che quindi aprirà tutta una serie di prospettive molto ampie. Secondo me però una delle cose che bisognerebbe capire è quanto questi strumenti ad esempio siano sicuri. Nel certo. Senso, una volta che si abbandona la carta e si parla di bit, l'abbiamo visto con il phishing, l'abbiamo visto con tutti i rischi che si corrono a dare i numeri delle carte di credito su internet, sono aperti a possibilità di problemi. E no, infatti, Luca? Come avevamo al momento giusto il notaio, abbiamo anche al momento giusto, perché ci siamo preparati, l'esperto di informatica e docente di informatica a Milano, Mattia Monga. Allora, proviamo a dire qualcosa di forte, che non... cioè adesso questa è la mia, chiaramente, il mio desiderio. No, non funziona nulla, cioè stiamo sbagliando tutto, dobbiamo cambiare al volo. Ma allora, la posta elettronica com'è strutturata attualmente, insomma nell'uso quotidiano, ovviamente non dà garanzie di consegna dei messaggi, per cui quando noi mandiamo un messaggio a qualcuno non abbiamo nessuna diciamo evidenza che possa essere mostrata ad altri che il messaggio l'abbiamo mandato e che il messaggio è stato ricevuto. Quindi la posta elettronica certificata vuole appunto in qualche modo andare a risolvere questo problema e quindi fa quello che fa, appunto, come ha detto la scheda, l'ha raccomandata con avviso di ricevimento, cioè fornisce un documento inoppugnabile entro certi limiti che garantisce il fatto che è stato mandato un messaggio a una certa ora, di una certa data, ed è stato ricevuto dall'altra parte a una certa quindi ora. Quindi io non posso fingere di essere te e copiare l'indirizzo, mandare, cioè attenzione, le truffe sono, cioè io allora, mi sbizzarrerei la posta elettronica certificata si preoccupa di specificare come deve essere fornita appunto la prova che un certo messaggio il cui mittente corrispondeva al mittente registrato presso un certo fornitore di posta elettronica ha mandato un messaggio in una certa data e dall'altra parte è stato ricevuto, cioè è stato messo nella inbox, insomma, del destinatario. In realtà né in questo processo non c'è, perlomeno non è nella posta elettronica certificata, una certificazione dell'identità di mittente e destinatario. Nova Lab 24. Pare incredibile, ma sono moltissimi gli sms sulla posta certificata. Non ci credevo, ma effettivamente è un argomento che appassiona, anche perché, giustamente, io stavo riflettendo, se io ho, metti che ho Linux, o metti che Antonio, non so, tu che c'hai? Metti Mac. Metti che abbiamo Mac. Riusciamo a far sì che far finta di... Anche se siamo dei professionisti, noi giustamente ricordiamo, entro novembre tutti i professionisti dovranno avere la posta certificata. Se io ho un sistema dell'anteguerra, o se io preferisco il Mac rispetto a Windows, o se preferisco Linux... Ma allora, dal punto di vista dell'applicazione che l'utente, il mittente usa per mandare la posta elettronica, non c'è nessuna restrizione, nel senso che diciamo, è sempre comunque un messaggio di posta elettronica, quindi uno lo può usare con il sistema che preferisce, insomma. Quindi da questo punto di vista non c'è nessuna restrizione rispetto alla posta elettronica certificata. Quello che succederà dopo aver mandato il messaggio di posta elettronica tramite un provider che corrisponde a questo standard. Quindi io mi devo andare a fare un altro indirizzo di posta elettronica che sia certificato, oltre a quello che ho già. Antonio Dini, chiocciola Antonio Dini, non lo so. Esatto, com. Esatto, ci sarà un Antonio Dini at qualcosa PEC di solito, insomma, il dominio è riconoscibile anche come dominio di posta elettronica certificata, e quindi è il provider, è chi fornisce il servizio che deve adottare lo standard. E a questo punto il messaggio che mando io col mio client tradizionale riceverà poi anche due messaggi, un messaggio di avvenuto invio con appunto la prova certa dell'invio e un messaggio di avvenuta ricezione, se questa ricezione è effettivamente avvenuta. Il messaggio di avvenuta ricezione, ecco, attenzione, vuol dire che è stato ricevuto nella casella di posta elettronica del destinatario. Ovviamente non ho nessuna garanzia che di là sia stato letto, processato. Chiarissimo, dal... chiarissimo. Abbiamo Mauro da Bologna. Buongiorno Mauro. No, non abbiamo Mario da Bologna, è scappato. È cascato per terra. È cascato. Io volevo chiedere allora a Genghini, aspettando Mauro, allo stato attuale, quanto è digitalizzato? Quanti documenti possono essere scambiati e legittimamente utilizzati in chiave digitale? Quanto invece richiede ancora il buon caro vecchio pezzo di carta? Sul piano normativo non ci sono più barriere da superare. Il nuovo CAD prevede la necessità che l'atto e il procedimento amministrativo, atto pubblico, certificazioni, tutto quanto venga rilasciato dalla pubblica amministrazione in formato digitale. Quindi non ci sono più barriere normative. Io già redigo atti pubblici e scritture private puramente digitali, e superando alcune lacune normative mediante degli accorgimenti sia tecnici sia procedurali, e quindi ritengo che da questo punto di vista non ci sono ostacoli. Se poi invece la domanda, e questa è la domanda forse più interessante, è un file firmato, una famosa cartella clinica o un atto notarile in formato digitale, munito di una firma digitale, costituiscono sotto tutti gli aspetti pratici e anche di usabilità una sostituzione piena della carta? Qui la domanda è insidiosa. Diciamo che nel mio studio si scaricano atti notarili, copie digitali di atti notarili oramai da 5 anni, e c'è un gradimento che 2 anni fa era neanche il 5% e oggi supera il 60% da parte degli utenti. Ma comunque c'è ancora un 40% che viene a prendersi la cartellina con tutti i fogli di carta, eccetera, eccetera. Mauro, dimmi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Innanzitutto grazie per avermi fatto intervenire. Vi volevo dire, io sono un frequentatore assiduo della pubblica amministrazione, vari uffici della pubblica amministrazione, e ho riscontrato tanti difficoltà da un punto di vista gestionale per ciò che concerne tutto l'aspetto cartaceo. Rilacciandomi all'intervento di un vostro ospite, volevo dire che, a mio modesto parere, un intervento dall'alto per snellire la macchina burocratica sarà quanto mai difficile e molto probabilmente poco produttivo. Io avevo, per motivi di lavoro, studiato un po' il metodo Toyota, che è un metodo giapponese per affrontare le problematiche nelle aziende. Questo metodo prevede essenzialmente questo: un gruppo di lavoro dal basso, che vada a intervenire sul processo produttivo, quindi dal certificato al permesso di costruire, a qualsiasi cosa comunque sia composta, ma dal basso. Chiarissimo, proviamo a chiedere a essere in linea Gianluigi Cogo. Va bene quindi questo metodo Toyota dal basso di gruppi di lavoro? Assolutamente sì, secondo me. Cioè, ho ascoltato molto attentamente il dibattito sulla PEC, ma signori miei, partiamo da un concetto un attimino più semplice. Che rapporto abbiamo noi con la nostra banca? Parlo dei cittadini, non dei mediatori. Perché le chiacchiere che ho sentito sono sicuramente produttive e sono sicuramente perfettamente in linea con quello che è il sistema dei mediatori, parlo dei notai, dei commercialisti, che più ne ha più ne metta, ma il cittadino, che in questo momento è sottoculturato in Italia da un punto di vista di gestione di quello che sono le facilitazioni della rete, quindi che ha una cultura generale digitale scarsissima, non sa neanche spedire una mail normale, non sa neanche usare l'home banking, ma in banca nel momento in cui arriva l'home banking non è che gli diano una nuova email o gli diano un'altra identità parallela, si fidano e riesce a fare anche tutta una serie di transazioni attraverso dei sistemi sicuramente sicuri, protetti, che l'esperto di sicurezza può raccontare meglio di me. Quello che io voglio dire è una cosa molto più semplice, ma possibile che per tutto quello che fa la pubblica amministrazione dobbiamo sempre e comunque qualificarci? Cioè dobbiamo sempre dimostrare chi siamo e dobbiamo dimostrare che è stato ricevuto e che è stato recepito. Allora, il concetto è semplice, questo, il buon senso deve prevalere. Non è possibile che se io trovo il semaforo rotto, come avete detto nella scheda, devo munirmi dall'auto di un qualcosa che sia posta certificata per poi mandarlo a un qualcuno che non so neanche se a quel punto smaltirà la mia pratica e se nemmeno l'ha capita. Cioè, torniamo al buon senso, ha ragione l'ascoltatore, cerchiamo di semplificare i processi. Genghini. Io sono totalmente d'accordo su quello che lei dice, tant'è che in CNIPA e con tutte le persone che si sono occupate di questa materia ho sempre sostenuto e ho anche scritto in materia che il cittadino non può essere messo nella condizione di assumersi la responsabilità legale della conservazione sicura della PEC che riceve. La PEC è uno strumento che va da professionista a pubblica amministrazione, fra professionisti, ma al cittadino che non sceglie spontaneamente di utilizzarla, e io con il mio PC di casa non la utilizzerei mai, pure se poi in ufficio la utilizzo quotidianamente, e non si può imporre di prendersi i rischi e la responsabilità di una casella di PEC. È una scelta assurda e molte associazioni di consumatori negli Stati Uniti, in Germania, in Olanda hanno proprio montato negli ultimi anni una vera campagna di opinione sul diritto a non essere costretti ad andare digitale. Quindi io su questo sono totalmente d'accordo con lei, però vorrei anche spezzare una lancia a favore degli intermediari, vituperata categoria di cui faccio parte. Il notaio nel 1913, la legge notarile del 13, era notaio in un paese dove il 50% degli italiani era analfabeta e, come gli studi delle Nazioni Unite in materia hanno ampiamente dimostrato, la certezza del titolo di proprietà, la certezza del proprio diritto di essere socio all'interno di una società costituiscono l'elemento più importante per lo sviluppo economico di un paese. Se sei analfabeta, senza il notaio tu non riesci a crearti la tua azienda agricola, la tua azienda artigianale insieme ai figli, con certezza del diritto, con continuità della proprietà nei passaggi generazionali e via dicendo. Quindi la figura notarile in un contesto economico come quello dell'Italia del 13 non solo era essenziale, ma è stato un elemento fondamentale del successo di questo paese. In India, dove non ci sono i notai, o in Africa, dove la funzione notarile è rappresentata in pochissimi stati, non si riesce a decollare, nonostante gli investimenti, nonostante tutto quello che si cerca di fare per far partire questi paesi, proprio perché certi aspetti basilari di certezza giuridica non sono garantiti. Allora, va bene, in Scandinavia hanno abrogato i notai, e questo già da molto tempo. E questo dà un brivido gelido nella schiena a tutti i notai italiani, presumo. Voglio dire, io penso che se uno è bravo un lavoro lo trova, infatti mi occupo di tecnologie, vorrà dire che un giorno farò concorrenza al professore qui in materia di tecnologie. Ma il punto fondamentale che voglio dire è che intermediare non è necessariamente un concetto negativo. Quando questa intermediazione serve a creare una certezza che altrimenti non hai, allora l'intermediazione serve. Quando l'intermediario è una figura che non svolge la sua funzione di intermediazione creando trasparenza e certezza, allora è una figura da abolire. Credo che questi siano dei concetti semplici su cui si può essere d'accordo. Io volevo tornare su uno dei punti che è stato sollevato, cioè sull'idea che mettersi tra virgolette in casa la propria casella di posta elettronica certificata di PEC, ed è una curiosità molto breve, in realtà sia più un rischio che non un'opportunità, nel senso che se poi mi prendo un virus che mi distrugge l'hard disk del computer, che succede? Ovvero c'è questo rischio comunque? Beh, allora, il disciplinare della posta elettronica certificata prevede che le ricevute vengano conservate per 30 mesi, debbano essere conservate per 30 mesi dai provider. Quindi l'idea è che appunto credo che il legislatore abbia voluto tutelare i cittadini. Non si sa cosa ho ricevuto, cioè io certo. Ho la prova, il sistema garantisce che si abbia una prova contro il cittadino, ma il cittadino non può dimostrare cosa ha ricevuto veramente. Se hai una battuta di 10 secondi su questa cosa, in realtà esistono tre tipi di ricevuta differenti, e c'è la ricevuta completa che contiene tutti i messaggi che vengono trasmessi. Abbiamo capito che dobbiamo tornare sul tema dell'innovazione nella pubblica amministrazione. Non finirà mai. Io ringrazio Gianluigi Cogo, ringrazio Riccardo Genghini e ringrazio anche il nostro esperto di informatica che tornerà presto a trovarci. Leggo solo un sms velocissimamente. La tecnologia dovrebbe servire a non stampare fogli, ma non a stampare fogli più velocemente, che è bellissima, di Luigi. Nova Lab 24. Nobel per la medicina 2009. Premiate le ricerche sulla longevità. Il titolo è stato assegnato ai tre ricercatori americani Blackburn, Grider e Zostak, che hanno aperto un nuovo campo di studi sull'invecchiamento cellulare, con le loro scoperte sui telomeri, strutture che proteggono i cromosomi. Per risparmiare energia ci vuole l'inchiostro. Sostituendo il 50% delle stampanti laser con le stampanti Business Inkjet e attivando il fronte retro in automatico, Epson Italia ha ottenuto, a parità di pagine stampate, un risparmio energetico pari al 90%, circa 1100 kg di CO2 in meno immessa. Spinoza.it è il blog più amato dalla rete. Con il 46% dei voti, il sito è risultato vincitore dei Macchia Nera Blog Awards, il concorso della Blogfest di Riva del Garda, in cui gli elettori sono gli stessi utenti del web. Blogger dell'anno è invece Paul The Wine Guy, con il suo sito paulthewineguy.it. Un'edicola digitale? Presto potrebbe diventare realtà. Secondo il Financial Times, John Squires, top manager della Times Inc., avrebbe in mente di creare una joint venture tra più editori interessati a creare uno spazio dove promuovere i propri prodotti editoriali, abilitando un accesso a pagamento. L'annuncio della nuova società dovrebbe essere fatto entro un mese e il servizio lanciato già a partire dal 2010. Continuiamo a leggere gli sms. Un esercizio di un corso di sicurezza che ho fatto, scrive Francesco, mi ha insegnato a farmi passare per Bush. Poi chissà proprio perché per Bush. Chiediamo al nostro esperto di sicurezza, è possibile, è così semplice farsi passare attraverso la posta elettronica per... Allora, innanzitutto dipende da com'è realizzato il provider, in molti casi è molto semplice, quindi è estremamente semplice, basta scrivere come mittente, esattamente come avviene con la posta normale. Io sul mittente sulla busta posso scrivere il nome che voglio. Ecco, nella posta elettronica, così come è stata pensata dai suoi ideatori originari, era così facile, quindi un po' facile falsificare. Ma perché era una vecchia internet fatta tutta da professori universitari, tutta brava gente che non aveva nessun interesse a falsificare e né ci pensava. Il problema è che poi quel tipo di architettura lì è diventata l'architettura dominante, dove un pubblico un po' più eterogeneo, anche di persone un po' più furbette, ha iniziato ad approfittarsene. Questo è il metodo con cui, credo, professor Monga, funziona lo spam, peraltro. Sì, certo, infatti lo spam si basa spessissimo sul fatto che non è possibile risalire con certezza ai destinatari. offerta ai mittenti, scusate. Ma noi non ci hanno ancora falsificato invece, nel senso che, ricordiamo, noi su Twitter siamo NovaLab24, ma anche su Facebook siamo NovaLab24 e non solo Lab24 come scrivevano alcuni ascoltatori che non ci trovavano su Facebook. Non è che non ci trovano, è che devono imparare a cercarci per bene. NovaLab24. Ecco, un sì. Se posso aggiungere, la posta elettronica certificata non risolve il problema dell'identità, okay? Quindi non è stata neanche pensata per questo. La posta elettronica certificata è stata pensata per risolvere il problema della prova dell'invio e della ricezione, quindi è questo il punto. Non c'è, diciamo, per l'identità bisogna rivolgersi alle tecniche di firma digitale. Ecco, è vero, c'è la firma digitale per quanto riguarda l'identità della persona. Infatti gli ascoltatori ce lo ricordavano, infatti probabilmente dovremmo tornare sul tema della firma digitale quanto prima, ma io volevo una risposta spot su questo, nel senso che la firma digitale è lo strumento appuntito giusto? Per l'identità, dice? Sì. Beh, allora, ovviamente anche lì si tratta di realizzare la firma digitale tramite tipicamente una qualche password o qualcosa del genere. Quindi è tanto sicura quanto lo è la password che usiamo per proteggerla, per esempio. E poi non è possibile fare perizie calligrafiche sulla firma digitale, mentre magari se la faccio con la penna uno può cercare di trovare una qualche rassicurazione da una perizia. Buon compleanno Radio 24, lo facciamo Antonio? Tanti auguri, tanti auguri. E appuntamento alle 16, ci sentiamo domani. Nova Lab 24.